Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Passai il giorno seguente vagando per la vallata. Andai alle sorgenti dell'Arveyron, che ha origine da un ghiacciaio che avanza lentamente dalla sommità delle montagne fino a chiudere la valle. I fianchi scoscesi di grandi montagne erano davanti a me. Le pareti gelate del ghiacciaio mi sovrastavano. Intorno solo radi abeti stenti. E il solenne silenzio di questa gloriosa sala delle udienze dell'imperatrice natura era rotto solo dal chioccolio dell'acqua o dal distacco di qualche blocco di ghiaccio, dal rombo di una valanga o dagli scricchiolii riecheggiati dai monti, del ghiaccio accumulatosi che attraverso il lavorio silenzioso di leggi immutabili veniva continuamente spezzato e schiantato come fosse solo un giocattolo tra le loro mani. Questo scenario sublime e magnifico mi offriva il più grande conforto che potesse ricevere, mi elevava da ogni piccolezza di sentimenti, anche se non poteva eliminare il mio dolore, lo calmava e lo placava, in qualche modo mi distoglieva dai pensieri che rimuginavo da un mese. Quando alla sera mi ritirai per riposare, il mio sonno fu, per così dire, accudito e protetto da quell'insieme di forme maestose che avevo contemplato durante la giornata. Mi si radunarono attorno le cime delle montagne immacolate, il picco scintillante, le abetaie, il burrone scosceso e desolato, l'aquila che plana tra le nubi. Tutti mi si fecero attorno e mi portarono pace. Ma dove erano sparite la mattina dopo il mio risveglio? Tutto ciò che mi aveva risollevato lo spirito era fuggito insieme al sonno e una cupa malinconia velava ogni mio pensiero. La pioggia scrosciava torrenziale, una fitta nebbia nascondeva le cime delle montagne, così che non vedevo nemmeno il viso di quei possenti amici. Eppure volevo penetrarne il velo di foschia e andare a scovarli in quei nascondigli di nubi. Cos'erano mai pioggia e tempesta? Mi portarono il mulo e decisi di salire sulla cima del Mont Anvers. Ricordavo l'impressione che lo spettacolo di quel ghiacciaio poderoso e in perpetuo movimento aveva prodotto su di me quando lo avevo visto per la prima volta. Una specie di estasi si era impossessata della mia anima. La vista di ciò che v'è di terribile e di maestoso nella natura aveva sempre destato in me un senso di solennità e mi aveva fatto dimenticare le preoccupazioni passeggere della vita. Decisi di andare senza guida perché conoscevo bene il sentiero e perché la presenza di un'altra persona avrebbe turbato la solenne maestà del paesaggio. La salita è ripidissima, ma il sentiero si snoda in curve strette e continue che permettono di superare la ripidità del monte. È uno spettacolo di una desolazione spaventosa. Dovunque si scorgono le tracce delle valanghe invernali, là dove gli alberi giacciono spezzati o inclinati verso il suolo, alcuni distrutti, altri piegati sulle rocce sporgenti o di traverso su altri alberi. A mano che si sale, il sentiero è intersecato da nevai lungo i quali le pietre cadono ininterrottamente. Uno di questi è particolarmente pericoloso perché il minimo suono, anche una parola pronunciata ad alta voce, causa uno spostamento d'aria sufficiente ad attirare la morte sul capo di chi ha parlato. I pini non sono alti né verdeggianti, ma cupi, e aggiungono alla scena un che di austero. Guardai la valle ai miei piedi. Vasti banchi di nebbia salivano dai torrenti e avvolgevano in fitte spire le montagne di fronte, le cui cime erano nascoste da un banco di nuvole, mentre la pioggia, cadendo da un cielo plumbeo, accresceva l'impressione di melanconia che ricevevo da quanto mi circondava. Ahimè, perché l'uomo può vantare una sensibilità superiore a quella dei bruti. Ciò serve solo a renderlo più schiavo dei bisogni. Se i nostri impulsi si limitassero alla fame, alla sete e al desiderio, potremmo essere quasi liberi. Invece ci lasciamo trasportare da ogni soffio di vento, o da una parola casuale, o dalla scena che questa parola può presentarci alla mente. Riposiamo. È un sogno. Ha la potenza di avvelenarci il sonno. Ci alziamo. È un pensiero errante, può inquinare il giorno. Sentiamo, concepiamo, o ragioniamo, o ridiamo, o piangiamo, ci disperiamo, o gettiamo via ogni affanno. È tutto uguale. Sia una gioia o un dolore, la via della sua dipartita è sempre aperta. Lo ieri dell'uomo non può mai essere simile al domani. Niente nel mondo può durare, eccetto la mutevolezza. Era quasi mezzogiorno quando giunsi al termine della scalata. Per qualche tempo sedetti sulla roccia che domina quel mare di ghiaccio. Era coperto di nebbia come le montagne circostanti. Poco dopo, un soffio di vento dissipò la nuvola e io discesi sul ghiaccio. La sua superficie è molto irregolare, perché si alza e si abbassa come le onde di un mare agitato e si fende in crepacci vertiginosi. Il campo di ghiaccio è largo circa 5 chilometri, ma io impiegai quasi 2 ore ad attraversarlo. La montagna prospiciente è una roccia nuda e a perpendicolo. Il Montanbert era di fronte al luogo dove mi trovavo, a 5 chilometri esatti di distanza, e sopra di esso si ergeva in tutta la sua maestà il Monte Bianco. Mi fermai in un anfratto della roccia ad ammirare quel panorama meraviglioso e impressionante. Il mare, o meglio l'ampio fiume di ghiaccio, correva fra le montagne del massiccio che con le loro aeree cime incombevano su ogni suo recesso. I picchi coperti di neve scintillanti brillavano al sole sopra le nubi. Il mio cuore, poco prima straziato dall'angoscia, traboccava ora di un sentimento simile alla gioia. Esclamai: «Spiriti vaganti, se davvero vagate e non riposate nei vostri angusti giacigli, lasciatemi almeno questa piccola felicità, o portatemi in vostra compagnia, lungi dalle gioie della vita». Mentre pronunciavo queste parole, scorsi a un tratto a qualche distanza la figura di un uomo che avanzava verso di me a una velocità sovrumana. Balzava sui crepacci del ghiacciaio fra i quali avevo avanzato con tanta cautela. Anche la sua statura, a mano che si avvicinava, sembrava superiore a quella di un uomo. Mi sentii turbato, una nebbia mi calò sugli occhi ed ebbi l'impressione di venire meno. Ma subito il vento freddo della montagna mi fece riavere. Mentre la forma si avvicinava, scorsi visione abborrita e tremenda, che si trattava del mostro da me creato. Tremai di rabbia e di orrore, deciso ad attenderlo per ingaggiare poi con lui una lotta mortale. Si avvicinò. Il suo volto esprimeva angoscia cui si univano sdegno e malvagità, mentre la sua disumana bruttezza lo rendeva intollerabile all'occhio umano. Ma quasi non me ne accorsi. L'ira e l'odio mi avevano dapprima ammutolito, e mi ripresi solo per inveire contro di lui con parole che esprimevano un furioso disprezzo. «Demonio!» esclamai. «Come osi avvicinarti a me? Non temi la vendetta del mio braccio sul tuo ignobile capo? Vattene, vile insetto, no, meglio, rimani, perché io possa calpestarti e ridurti in polvere, potessi, distruggendo la tua miserabile esistenza, richiamare in vita le vittime che tu hai assassinato in una maniera così diabolica». aspettavo una simile accoglienza, disse il demone. Tutti gli uomini odiano gli sciagurati, quanto allora devo essere odiato io, di gran lunga il più miserabile fra gli esseri viventi. Pure tu, mio creatore, detesti e disprezzi me, tua creatura, a cui sei legato da vincoli che solo l'annientamento di uno di noi può sciogliere. Il tuo proposito è di uccidermi. Come osi giocare a questo modo con la vita? Adempi ai tuoi doveri verso di me, e io adempirò ai miei verso di te e verso il resto dell'umanità. Se accetterai le mie condizioni, lascerò in pace sia loro che te. Ma se rifiuti, alimenterò le fauci della morte finché essa non sarà sazia del sangue degli amici che ancora ti rimangono. Mostro abietto, demone che non sei altro, le torture dell'inferno sarebbero castigo troppo lieve per i tuoi delitti, maledetto diavolo. Tu mi rimproveri di averti creato. Fatti avanti allora, perché possa estinguere la scintilla che ti ho tanto avventatamente donato. Accecato dall'ira mi scagliai contro di lui, spinto da tutti quei sentimenti che possono armare un essere contro un altro. Egli mi schivò facilmente e disse: calmati, ti prego di ascoltarmi prima di sfogare il tuo odio sul mio capo maledetto. Non ho forse sofferto abbastanza perché tu cerchi di aumentare la mia pena? La vita, per quanto sia soltanto un cumulo di dolori, mi è cara e la difenderò. Ricordati che mi hai fatto più forte di te. La mia altezza è superiore alla tua, le mie membra più agili, ma non mi lascerò tentare a mettermi contro di te. Sono la tua creatura e sarò persino docile e sottomesso con il mio naturale signore e padrone, se anche tu farai il tuo dovere verso di me. Oh, Frankenstein, non essere equo con tutti, mentre calpesti me solo, a cui maggiormente devi non solo giustizia, ma anche clemenza e affetto. Sono una tua creatura, ricordalo. Dovrei essere il tuo Adamo, e sono invece l'angelo caduto che tu hai allontanato dalla gioia senza colpa alcuna da parte sua. Dappertutto vedo beatitudine dalla quale io sono irrevocabilmente escluso. Ero buono e benevolo. L'infelicità ha fatto di me un demone. Rendimi felice e sarò di nuovo virtuoso. Vattene. Non voglio ascoltarti. Non ci possono essere rapporti tra te e me. Noi siamo nemici. Vattene o misuriamo le nostre forze in una lotta in cui uno di noi dovrà soccombere. Come posso commuoverti? Le mie suppliche non ti spingeranno a essere pietoso verso la tua creatura che implora bontà e compassione. Credimi, Frankenstein, ero buono il mio animo ardeva d'amore e di umanità. Ma non sono forse solo, spaventosamente solo. Tu, mio creatore, hai orrore di me. Quale speranza posso riporre nei tuoi simili che non mi devono nulla? Essi mi disprezzano e mi odiano, le montagne deserte e i ghiacciai desolati sono il mio rifugio. Ho vagato quassù per molti giorni, le caverne di ghiaccio, che io solo non temo, sono un rifugio per me. Amo questi cieli cupi, perché sono più buoni con me dei tuoi simili. Se sapesse della mia esistenza, l'umanità farebbe come te, si armerebbe per uccidermi. Non dovrei dunque odiare chi mi detesta. Non scenderò a patti con i miei nemici. Sono infelice, ma essi dovranno dividere la mia infelicità. È in tuo potere ricompensarmi, quindi liberare gli uomini da un flagello che a causa tua può diventare così terribile che non solo tu e la tua famiglia, ma anche migliaia di altri esseri correrebbero il rischio di essere inghiottiti dai gorghi della sua furia. Lasciati muovere a compassione e non disdegnarmi. Ascolta la mia storia e solo dopo abbandonami o compiangimi come ti sembrerà giusto, ma ascoltami ai colpevoli, per quanto sanguinosi loro crimini, è concesso dalle leggi umane di parlare in propria difesa prima di essere condannati. Ascoltami, Frankenstein, mi accusi di assassinio, eppure distruggeresti con coscienza tranquilla la tua stessa creatura. Sia lode all'eterna giustizia dell'uomo, ma non ti chiedo di risparmiarmi, ascoltami, e poi, se potrai e se vorrai, distruggi l'opera delle tue mani. Perché vuoi richiamarmi alla memoria circostanze che mi fanno rabbrividire al pensiero di esserne stato la sciagurata causa e l'autore? Maledetto sia il giorno in cui hai visto la luce, demone orrendo, maledette siano le mani che ti hanno plasmato, anche se maledico me stesso. Mi hai reso infelice oltre ogni immaginazione, non mi hai lasciato la facoltà di riflettere se sono giusto o meno nei tuoi confronti. Vattene, liberami dallo spettacolo della tua odiosa presenza. Così te ne libero, mio creatore, disse, e pose dinanzi ai miei occhi la sua mano che io respinsi da me con violenza. Così ti evito uno spettacolo che ti è odioso. Tuttavia, puoi ascoltarmi e concedermi la tua compassione. Te lo chiedo in nome della virtù che una volta possedevo. Ascolta, la mia storia è lunga e strana, e la temperatura di questo luogo non si adatta ai tuoi sensi delicati. Vieni nella capanna sulla montagna. Il sole è ancora alto nei cieli. Prima che esso scenda a nascondersi dietro quei precipizi nevosi per illuminare un altro mondo, tu avrai udito il mio racconto. Potrai decidere, stati, se debba lasciare per sempre la vicinanza dell'uomo e condurre un'esistenza inoffensiva o diventare un flagello per i tuoi simili, l'autore della tua rapida rovina. Così dicendo, si incamminò sul ghiaccio. Lo seguì. Avevo il cuore gonfio. E non gli risposi, ma mentre procedevo soppesai i vari argomenti da lui addotti e decisi almeno di ascoltare la sua storia. Ero in parte spinto dalla curiosità e la compassione rafforzò questa decisione. Lo avevo fino ad allora considerato l'assassino di mio fratello e desideravo ardentemente una conferma o una smentita di questa convinzione. Per la prima volta sentivo anche quali fossero i doveri di un creatore verso la sua creatura. Pensavo che avrei dovuto renderlo felice, prima di deplorare la sua malvagità. Questi motivi mi indussero ad acconsentire alla sua richiesta. Attraversammo quindi il ghiacciaio e scalammo il dirupo di fronte a noi. L'aria era fredda e ricominciò a cadere la pioggia. Entrammo nella capanna. Il demone con un'espressione di esultanza, io con il cuore pesante e lo spirito oppresso, ma accettai di ascoltarlo, e come fui seduto accanto al fuoco che il mio odioso compagno aveva acceso, egli iniziò il suo racconto.